Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Dopo 11 anni di lavori si inaugura oggi la variante di valico della 1, raddoppiato in parte il tratto appenninico. Renzi dice è l'Italia che riparte. Banche e perquisizioni nell'indagine sul suicidio del pensionato, c'è anche l'ipotesi di truffa, tensione con Bruxelles, il governo vorrebbe pubblicare il carteggio con l'Europa. Polizia ferma una ricercatrice dell'Università di Palermo accusata di propaganda jihadista su internet, è liberata dal GIP, potrà accedere alla rete. Cinema stasera, la prima di The Revenant con Leonardo DiCaprio, il caso dell'autore del romanzo è un dipendente federale, non può fare promozione, questa sera è a Nairobi per lavoro. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci, 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i vostri messaggi su WhatsApp. In apertura dunque andiamo a parlare dell'inaugurazione di oggi della variante di Valico, quella che è in sostanza una derivazione dell'autostrada del Sole nel tratto appenninico tra Bologna e Firenze e che dovrebbe rendere più fluido il traffico, nonostante stamattina si sia generata proprio per questa vicenda una coda di 12 chilometri. Si trova là e tra l'altro ha fatto la coda il collega del Sole 24 Ore, Giorgio Costa. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi, i nostri ascoltatori. Allora, com'è andata questa inaugurazione? L'inaugurazione è andata bene, diciamo che la premessa è stata negativa perché effettivamente l'inaugurazione ha prodotto, cioè la rimozione degli ultimi cantieri ha prodotto un intasamento veramente impressionanti in autostrada, peraltro il giorno del grande flusso, no? Natalizio da nord verso sud. Tuttavia, siccome l'8 novembre scorso Renzi si era impegnato a inaugurare entro Natale la variante di Valico, entro Natale ha voluto farlo ed effettivamente l'ha fatto il 23 dicembre. Si tratta di un tracciato importante, sono 59 chilometri di nuova autostrada che affiancano quella vecchia, e 50% di questo tracciato è in galleria. Sono stati scavati 7,9 milioni di metri cubi di terra, l'opera è costata 4,1 miliardi e ci hanno lavorato 10.000 persone per un lavoro complessivo di circa 30 milioni di ore. Sono numeri rilevanti, ma sono anche rilevanti, dicevo, i costi, 4,1 miliardi erano stimati in 2,5 e quindi c'è stato, diciamo, un incremento in corso d'opera, normale, diciamo, per la situazione italiana, dovuto anche al fatto che la variante di Valico ha impiegato 24 anni per arrivare al punto di inaugurazione. Si è iniziato a parlarne nel 1982 e l'inauguriamo oggi, che è il 23 dicembre del 2015. Pensate invece che l'autostrada del Sole venne pensata nel 1952 e venne inaugurata nel 1964. Quindi ci vollero solo 12 anni. Ce l'abbiamo messo il doppio. Tempi decisamente diversi. Ti ringrazio, grazie a Giorgio Costa, collega del Sole 24 Ore, che lascio al suo lavoro. Noi della variante di Valico torneremo a parlare più avanti con un altro giornalista del Sole 24 Ore che si occupa spesso di queste vicende e che ospitiamo spesso quando parliamo di strade, Maurizio Caprino, perché si inaugura questa variante di Valico non senza qualche problema a partire dall'imbuto che ci si troverà alla fine. Intanto passiamo a parlare di banche, le quattro banche salvate dal governo, Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, salvate appunto con un decreto varato il 23 novembre scorso, decreto che ha portato all'azzeramento, lo ricordiamo, del valore di azioni e obbligazioni subordinate. Oggi sono molti sia gli spunti politici che quelli di cronaca giudiziaria. Innanzitutto è la tensione crescente con Bruxelles, perché Roma aveva proposto una soluzione che potesse salvaguardare anche questi soggetti, ma è stata rifiutata dall'Europa. Poi c'è il fronte delle autorità di vigilanza italiane, con la Consob che torna a difendersi. Infine la giustizia penale, con le indagini sul suicidio di un pensionato che aveva perso oltre 100.000 euro. Iniziamo proprio da qua, dalle indagini sulla morte di quest'uomo, e ci colleghiamo con Sara Monaci del Sole 24 Ore, che si sta occupando proprio delle inchieste che riguardano in particolare Banca Etruria. Sara, buongiorno e un punto. Buongiorno. Un punto, prego. Allora, questa mattina la Guardia di Finanza è entrata nella sede di Banca Etruria a Civitavecchia. Ricordo che quindi sono due le procure in questo momento che si sono attivate. La prima è quella ovviamente di Arezzo per i filoni principali che riguardano proprio il fallimento della banca, con allo stato attuale 4 filoni di indagine. Ricordo che sono l'ostacolo alla vigilanza, l'emissione di truffe false già chiuse per i quali si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Poi sono state aperte in vista anche degli ultimi episodi un fascicolo per conflitto di interessi e poi soprattutto appunto quello per truffa nel caso delle emissioni delle obbligazioni per presunto raggiro di tutti gli azionisti e degli obbligazionisti. E ricorderete che c'è stata appunto questa tragica morte, il suicidio di Luigino D'Angelo, un pensionato che era titolare di obbligazioni subordinate, che il 28 scorso si è suicidato dicendo che dipendeva da questo smacco che aveva ricevuto, questa sorta di tradimento che aveva ricevuto da Banca Etruria. Ecco, per questo caso è stata la procura di Civitavecchia, competente territorialmente, ad aprire un fascicolo che è dovuto, ricordo, quello per l'istigazione al suicidio. Di solito quando ci sono suicidi legati ad eventi così socialmente rilevanti si apre fascicolo che è per l'istigazione al suicidio. Ecco, oggi evidentemente hanno trovato motivo di procedere, di andare avanti, e i procuratori di Civitavecchia quindi hanno dato mandato alla Guardia di Finanza di entrare nella sede di Banca Etruria per prelevare evidentemente documentazioni che loro ritengono significativi per l'accertamento della verità su questa tragica morte. E si parla evidentemente anche di truffa, quindi questo suicidio potrebbe essere collegato, si presuppone, anche proprio alla truffa che la banca avrebbe operato nei confronti di questi azionisti. Allora Sara, io ti ringrazio per questo aggiornamento. Sara Monaci del Sole 24 Ore. Intanto, sempre da questo lato, come si diceva, si fa più difficile il rapporto con Bruxelles, tanto che il governo starebbe pensando a pubblicare, forse addirittura questo pomeriggio, il carteggio con l'Europa. Sentiamo. In una lettera più volte citata ma fino ad oggi riservata, c'è scritto perché l'Unione Europea abbia deciso di rifiutare il piano A dell'Italia per salvare Banca Marche, Etruria, Carichieti, Cariferrara. A chiedere a Bruxelles di mettere nero su bianco le motivazioni è stato lo stesso governo italiano, il cui progetto iniziale era usare il fondo interbancario di tutela dei depositi che non avrebbe coinvolto i risparmiatori. L'Europa però boccia l'idea. È il 19 novembre e i commissari in sostanza scrivono: se lo Stato espropria risorse private, in questo caso delle banche, e le mette dove vuole, si tratta di un aiuto di Stato, e se è un aiuto di Stato scatta autonomamente la risoluzione delle banche sul modello europeo, colpiti quindi possessori di azioni e bond subordinati. A sostegno della loro tesi c'è una giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, dicono. Così arriva il piano B e il 22 novembre il CDM dà il via libera al salvataggio delle quattro banche seguendo la linea di Bruxelles, anche perché da gennaio, con le nuove norme, a pagare saranno anche gli obbligazionisti ordinari e correntisti sopra 100.000 euro. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il fronte politico di queste vicende comprende tra l'altro una nuova intervista di Vegas, il presidente della Consob, e parla anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, anche lui in un'intervista. Sentiamo. Passa anche per il Quirinale in queste ore il confronto fra forze politiche e istituzioni sulla vicenda delle banche. Il presidente Mattarella ieri ha ricevuto il numero uno dell'autorità anticorruzione, Cantone, e quello della Consob, Vegas. Quest'ultimo ha fatto sapere di non aver mai pensato alle dimissioni e ha difeso l'operato della Consob, che ha detto è pronta a collaborare con la Camera Arbitrale dell'ANAC, alla quale il governo ha affidato l'incarico di verificare caso per caso i dossier degli obbligazionisti delle quattro banche. Vegas ha però avvisato che non sarà facile rimuovere le sovrapposizioni. A Palazzo Madama, intanto, il senatore democratico Marcucci, uomo vicino al premier Renzi, ha presentato un disegno di legge per l'istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta sugli stati di crisi e di dissesto degli istituti bancari a partire dal 2000, una proposta forte, visto che l'organismo avrebbe poteri equiparabili a quelli della magistratura. La soluzione però non convince tutti, anche nello stesso PD c'è chi preferirebbe l'istituzione di una semplice commissione di indagine, quindi con meno poteri, lasciando invece ai magistrati il compito di individuare e punire eventuali responsabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre sul fronte della politica la discussione resta aperta e la polemica forte sulla riforma della RAI approvata ieri. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Eh sì, buongiorno. Abbiamo visto le critiche di Maurizio Gasparri, leggina che sarà stracciata per palese illegalità, ha detto l'ex autore di una delle leggi di riforma della RAI di Forza Italia, ma tutta l'opposizione è schierata contro questa riforma, come è schierato anche la Federazione Nazionale della Stampa e dell'Usigrai. Parla di doppio colpo sui due pilastri dell'autonomia e dell'indipendenza dei servizi pubblici. Queste le critiche alla riforma che è stata approvata ieri dal Senato in via definitiva subito dopo la legge di stabilità e a Palazzo Chigi, al Ministero dell'Economia. Secondo questa riforma aspetteranno le decisioni più importanti sulla TV di Stato, dagli organi dirigenziali alle regole di bilancio. Il Ministero dell'Economia sceglierà infatti il capo azienda, che avrà anche le mani libere sulle nomine, ad eccezione dei direttori delle testate giornalistiche. E i nuovi superpoteri saranno anche passati all'attuale direttore generale, che sarà trasformato in amministratore delegato. Potrà essere sfiduciato dal consiglio di amministrazione, che passa da 9 a 7 membri, ma sarà come sfiduciare effettivamente un ministro in Parlamento. Il consiglio sarà sempre più proiezione di una maggioranza parlamentare che appoggia il governo. Ecco perché le critiche dell'opposizione. C'è però un fatto positivo, che i ricavi saliranno di 420 milioni di euro grazie all'inserimento del canone in bolletta. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Veniamo sempre alla cronaca politica, ma in questo caso al varo di un decreto che arriva oggi, il famoso decreto mille proroghe. Fatta la stabilità, ora tocca al mille proroghe, il classico provvedimento di fine anno con cui si spostano in avanti i termini di legge o scadenze su più diversi temi. La bozza è composta di 10 articoli per una cinquantina di proroghe. Si va dal SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, all'affidamento della riscossione dei tributi locali ad Equitalia. In pratica la possibilità per i comuni di poter gestire in proprio l'attività di riscossione, che verrebbe nuovamente rinviata di 6 mesi. Un'altra richiesta che arriva sempre dall'ANCI e che interessa alcune migliaia di lavoratori atipici è quella che riguarda la possibilità di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre il termine previsto. Altri rinvii invece sono sulle agevolazioni relative ai versamenti di imposte e contributi in zone colpite da calamità naturali, o il divieto di incrocio stampa TV previsto dal testo unico del 2005, che verrebbe spostato in avanti di un anno. Al 31 dicembre 2016, dunque, il termine prima del quale chi esercita attività televisiva ha una quota di ricavi superiore all'8% del valore del sistema non può acquisire partecipazione nei quotidiani. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La musica dei Beatles cambiò decisamente argomento, poi torneremo ad occuparci tra l'altro anche della variante di valico, oltre che di dati economici in arrivo e di vicende di cronaca come questo arresto di questa mattina per terrorismo. Passiamo a parlare di spettacoli. La musica dei Beatles arriva da Natale anche in streaming. Le canzoni lasciate in eredità dal quartetto di Liverpool, l'ho anticipato la BBC, in realtà è arrivato proprio questa mattina un comunicato della Universal Music, saranno disponibili dal 25 dicembre su una serie di servizi in streaming. Obiettivo: contribuire a garantire la popolarità nel tempo. I Beatles compiono un altro passo nel mondo digitale dopo essere approdati solamente nel 2010 su iTunes. Ma parliamo di cinema adesso per raccontarvi una storia. Già ve l'accennavamo nei titoli, riguarda un film del quale c'è la prima, un film con protagonista Leonardo DiCaprio, ma l'autore del romanzo praticamente non può fare promozione. Scrivi un romanzo, ne fanno un film, addirittura diretto da Alejandro González Iñárritu e interpretato da Leonardo DiCaprio. Ma alla prima non ci puoi andare. Michael Punk, avvocato di Washington, aveva scritto The Revenant nel tempo libero, ma la sera della premiera a Los Angeles, 13 anni dopo la pubblicazione del libro, era a 15.000 km da lì, a Nairobi, in Kenya. In qualità di rappresentante del commercio americano e ambasciatore del WTO, stava mettendo a punto un accordo internazionale da, scrive la Washington Post, 1,3 trilioni di dollari per apparecchiature GPS, semiconduttori e touchscreen. Vorrebbe davvero parlare del film, spiega il fratello Tim Punk, che ormai è diventato il suo portavoce, ma per regole federali non può svolgere nessun lavoro collaterale al suo, nemmeno una banale campagna promozionale, nemmeno un'intervista. Magari Leonardo DiCaprio potrebbe parlare in pubblico dell'accordo, ha detto Christopher Wank, direttore esecutivo dell'International Policy alla Camera di Commercio americana. Visto che Michael non può parlare del film, a questo punto sarebbe giusto. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi di strade continueremo a parlare, perché torneremo a parlare di questa variante di valico. Lo faremo con Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che nel frattempo ci ha già raggiunto in studio appunto ci sono un po' di dettagli su questa vicenda, appunto sulla variante di valico e soprattutto un collo di bottiglia alla fine. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 11 anni di lavori e si inaugura oggi la variante di valico dell'autosole. Come avete sentito, raddoppiato in parte il tratto appenninico, non senza qualche problema e traffico. Banche perquisizioni nell'indagine sul suicidio del pensionato, c'è anche l'ipotesi di truffa ed è alta la tensione con Bruxelles, il governo vorrebbe pubblicare il carteggio con l'Europa. La polizia ha fermato una ricercatrice dell'Università di Palermo accusata di propaganda jihadista su internet, è stata liberata dal GIP perché dice non sussiste il pericolo di fuga, potrà comunque accedere alla rete. E notizia di pochi istanti fa, il Ministero del Lavoro ha effettuato a novembre controlli a tappeto nel centro di Roma. Su 380 aziende commerciali, quindi negozi ispezionati, 270, il 70% sono risultati irregolari e 201 sono stati lavoratori in nero scoperti. Veniamo dunque alla variante di valico e ci facciamo una chiacchierata col nostro Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che spesso ci aiuta a addentrarci in queste vicende. Allora, oggi si inaugurano questi 50 e passa chilometri, Maurizio, che sicuramente porteranno un beneficio in quella specifica parte del tracciato dell'autostrada del Sole, e però c'è qualche problema. Sì, direi che non sono tanto i problemi che stiamo sentendo in queste ore, nel senso che diciamo quando si inaugura c'è sempre un po' di turbamento al traffico e sicuramente non è stato prudente inaugurarlo in un momento di grande esodo, sicuramente i tecnici questo lo sapevano, quindi mi pare che la scelta di inaugurare proprio oggi sia una scelta prevalentemente politica. Politica, anche se... evidentemente. Lo stesso Giorgio Costa che abbiamo avuto in diretta prima ci diceva Renzi voleva inaugurare prima di Natale e prima di Natale ha inaugurato, siamo arrivati un po' troppo sotto presumibilmente. Esattamente, noi qui adesso parliamo di problemi a regime e sicuramente nei giorni di esodo ci potrà essere un problema da Barberino a Firenze, perché diciamo questa variante non arriva a Firenze, arriva solo fino a Barberino, che è la, diciamo, l'ultima uscita di montagna del percorso montano di questa autostrada e sicuramente a Barberino non escono tantissime persone, per cui il grande flusso che si ha nell'esodo che avrà adesso a disposizione questa variante di valico che pare bellissima, però poi a Barberino troverà questo collo di bottiglia, per cui prepariamoci comunque ad avere notizie su questo. Un po' succederà come temo, come è successo col passante di Mestre. Ce lo raccontavi prima in redazione, Maurizio, come funziona, che cosa è successo col passante di Mestre? Praticamente abbiamo aumentato la capacità della strada fino a Venezia, però poi da Venezia a Trieste la strada è rimasta uguale e i flussi di traffico non scemano tanto dopo Venezia, quindi questo grande traffico poi che fluiva bello, regolare, a un certo punto trova l'imbuto e succede un disastro. A volte è meglio tenere il vecchio percorso che già funge da effetto contagoccio, nel senso che le code sono distribuite su qualche decina di chilometri e sembra un po' più accettabile rispetto a un blocco enorme e che sembra da disperati, insomma. Aiutaci a capire un'altra cosa, come informazione proprio pura di servizio, Maurizio, nel momento nel quale noi arriviamo nel punto nel quale possiamo imboccare la variante, perché un ascoltatore già ci chiede, dice ma la parte vecchia, la vecchia autostrada rimane? Sì, certamente rimane e noi dovremo operare una scelta. Allora sì, intanto rimane solo in parte perché c'è tutta una graduazione di interventi. Diciamo che per una quarantina di chilometri è possibile scegliere. Dobbiamo tener conto che il percorso nuovo corre più in basso, quindi è meno esposto alla neve, ha curve molto più dolci, quindi è molto più facile, molto più rilassante, quindi anche molto più adatto alle caratteristiche del guidatore moderno, che non è più, diciamo, lo smanettone che c'era negli anni 60. C'è però da dire questo, che si rischia di avere un maggior traffico pesante, quindi sicuramente un percorso adeguato, adeguatissimo, ma sarà molto battuto dai camion che tendono a evitare le pendenze perché così risparmiano molto sul gasolio. E quindi forse agli automobilisti converrà andare dall'altra parte, quantomeno nei giorni in cui c'è maggior traffico. Assolutamente sì. Quantomeno nei giorni in cui c'è maggior traffico. Io ti ringrazio, grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore per essere stato con noi e per averci chiarito qualcosa appunto sull'apertura di questa variante di valico e anche i dubbi che ci possono essere. Saluto Paolo Magri, che è direttore dell'ISPI. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, l'abbiamo chiamata perché oggi voi pubblicate un sondaggio molto interessante, un sondaggio che fate ogni anno e che fate insieme a Ipsos su quelle che sono le grandi preoccupazioni degli italiani e come vedono gli italiani la politica internazionale. E però, prima ancora di venire a questo sondaggio, dal quale emerge, tra l'altro, è giusto per anticiparvi qualcosa, che secondo gli italiani le tre principali minacce globali, la prima è il terrorismo con il 38%, la seconda è la crisi economica, che però scende al 12% dal 30% dell'anno precedente, e poi arrivano i cambiamenti climatici che sono in calo. Però prima ancora di arrivare a questo, la vorrei coinvolgere sul tema dell'interlocuzione che l'Italia sta avendo con l'Europa in questi giorni e che riguarda anche il decreto salva banche. In un'intervista oggi al Foglio, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan parla anche di una serie di limiti superati, per così dire, nel rapporto con l'Europa. Uno di questi è sicuramente il decreto salva banche, come abbiamo raccontato. Forse oggi il governo potrebbe pubblicare il carteggio con Bruxelles, con il quale Bruxelles ha impedito all'esecutivo in sostanza di utilizzare i fondi, che in realtà poi sono fondi delle banche, non sono fondi di Stato, per salvaguardare anche azionisti e obbligazionisti. Ha l'impressione che negli ultimi giorni, tra l'intervista di Renzi all'FT nel quale parla molto duramente della Germania, questa intervista di Padoan e altri elementi, come per esempio la richiesta di rivedere le sanzioni alla Russia, sia cambiato o stia cambiando il rapporto dell'Italia con Bruxelles? Sì, non esaspererei la questione, ma non la sottovaluterei neppure, nel senso, noi usciamo da un anno terribile per l'Europa, non terribile come il passato, in cui era terribile per motivi economici, perché c'erano dei salvataggi continui da fare, ma terribile perché ci sono state divisioni prima sulla Grecia, poi sull'immigrazione, poi addirittura sulla politica energetica, e sotteso c'era il tema delle sanzioni. È un tema che riguarda l'Italia, senz'altro, ma non riguarda solo l'Italia. Assistiamo a un'Europa dove, dopo il voto francese, polacco, portoghese, spagnolo, gli elementi di incertezza sono sicuramente aumentati rispetto a prima. In questo l'Italia fa quello che stanno facendo altri paesi, cerca di chiarire ai propri cittadini che alcune delle decisioni che prende o che non prende sulle banche come sulle immigrazioni non dipendono dal governo nazionale, ma dipendono dal governo comunitario. È un po' lo gioco che abbiamo visto anche in passato, solo che lo scaricabarile tocca moltissimi paesi ormai, non solo un paese. Senta Magri, per venire al vostro sondaggio, mi sembra che i cambiamenti rispetto all'anno scorso siano stati piuttosto forti. Come si diceva prima, abbiamo citato i dati delle minacce globali, ma avete fatto anche il sondaggio sulle minacce per l'Italia. Certo. E rispetto al 2014, nel 2014 la principale minaccia per l'Italia era la crisi economica per il 67% degli intervistati, e quest'anno è il 40%, è sceso del 27%. Il terrorismo islamico sale dall'8% al 28%, immagino anche abbastanza normale, se vuole, Magri, visti gli attentati di Parigi di gennaio e anche l'ultimo di novembre. Sì, teniamo conto che il sondaggio è stato fatto nelle due settimane dopo Parigi, e sul tema terrorismo questi sondaggi che noi realizziamo ogni tre mesi hanno, come per l'immigrazione, una, uso questo termine improprio, stagionalità. L'immigrazione diventa tremendamente preoccupante a giugno, luglio, agosto, di terrorismo si preoccupa moltissimo dopo gli attentati, e c'è stato un picco dopo l'attentato in Tunisia, c'è stato un altro picco ora dopo l'attentato di Parigi, ma solo tre mesi fa il terrorismo era al 10%, ora siamo al 30% come preoccupazione. È certo che in questo momento crisi, terrorismo e migrazioni sono molto simili nella preoccupazione per gli italiani. Complessivamente, insomma, quindi quasi si equivalgono. Quasi si equivalgono. L'anno scorso non ci sono punte così forti, lo scorso anno la crisi era nettamente staccata dalle altre preoccupazioni. E come vedono l'Italia nel mondo e nei suoi rapporti internazionali gli italiani? Questo è un dato interessante, perché mentre ci sono, con qualche contraddizione, innanzitutto viene approvato la cautela dell'Italia sull'intervento militare in Siria. La maggior parte della maggioranza degli italiani considera, anzi due terzi, sconsiglia un intervento militare in Siria, dell'Italia, un coinvolgimento diretto, e vede quindi la posizione italiana come crescentemente un fattore di stabilità e pace. Lo scorso anno l'Italia fra i paesi che contribuivano alla pace del mondo e non esisteva quasi, quest'anno è arrivata al terzo o quarto posto, e questo è un dato significativo. Viene molto criticata la politica sull'immigrazione, e qui torniamo alla domanda iniziale che lei mi ha fatto: si mescolano le politiche nazionali con le politiche europee e con le non risposte europee. Gli italiani vorrebbero accogliere solo i rifugiati, questo è un dato nuovo positivo, il 50% dice che i rifugiati politici vanno accolti, vorrebbero respingere i migranti economici, e sono a favore delle quote, ma queste quote, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte anche nella nostra trasmissione, non vengono implementate, o se vengono decise non vengono poi realizzate nei fatti. E questo è un po' l'elemento. Però si sente la preoccupazione sulla sicurezza su un dato. Lo scorso anno solo il 40% riteneva insufficienti le spese militari, quest'anno il 60% della popolazione crede che l'Italia non dedichi all'esercito e alla difesa abbastanza risorse. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata. E di questa mattina arrivano un po' a singhiozzo le notizie che riguardano il dossier per Roma 2024, per la candidatura di Roma alle Olimpiadi. Questa mattina sono emersi dei dettagli che riguardano le città che dovrebbero ospitare la parte calcistica dell'Olimpiade. Abbiamo Giovanni Capuano con noi. Giovanni, eccoci. Sì, eccoci. Sì, hanno fatto la lista delle città e degli 11 stadi, lista che viene poi inserita nel dossier della candidatura presentata il prossimo 17 febbraio al CIO a Losanna. Si tratta di 11 stadi, c'è l'Olimpico di Roma ovviamente che è candidato per ospitare la finale, ci sono San Siro di Milano e il San Paolo di Napoli che dovrebbero ospitare le due semifinali e anche un quarto di finale a testa, e poi le altre sedi designate dal comitato organizzatore di Roma 2024 sono lo Juventus Stadium di Torino e poi gli impianti di Genova, di Firenze, di Bologna, di Udine, di Verona, di Bari e di Palermo. Questo ovviamente è un elenco di speranze e di progetti più che realmente l'elenco dove si disputerà eventualmente il torneo di calcio, anche perché bisogna ricordare che la scelta definitiva, prima ancora che la candidatura di Roma 2024 venga accettata o meno, dipende dalla FIFA, e che solitamente gli stadi che vengono impegnati per i due tornei maschile e femminile sono 6 o al massimo 7, come dice anche l'esperienza di Rio de Janeiro che vivremo l'anno prossimo. Dunque, ammesso che Roma venga scelta per le Olimpiadi, poco più della metà di questo elenco di 11 impianti potrà avere la fortuna di ospitare una partita olimpica. E grazie Giovanni Capuano, che ritroviamo anche oggi con tutti i convocati a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo, andiamo tra un attimo a sentire che cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione, tra l'altro, vi faremo sentire un'intervista realizzata dalla nostra Livia Zancaner a Ivan Favretto. Chi è? È un meccanico di 35 anni di Castelfranco Veneto che lunedì mattina si è presentato nella filiale di Veneto Banca di Borgo Treviso per riavere indietro i soldi investiti e ha portato via dalla casa 7.300 euro. È stato condannato per direttissima e dice: sono andato via di testa, quando ho visto che avevo perso i soldi sono andato via di testa. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: dopo 11 anni di lavori si è inaugurato oggi la variante di valico della 1, è stato raddoppiato in parte il tratto appenninico, parla il Presidente del Consiglio Renzi che dice: è l'Italia che riparte. La vicenda delle banche: ci sono perquisizioni nell'indagine sul suicidio di un pensionato che ha perso 100.000 euro. C'è anche l'ipotesi di truffa. Si alza nel frattempo la tensione con Bruxelles. Il governo vorrebbe pubblicare, forse lo farà stasera, il carteggio con il quale l'Europa ha negato la possibilità di salvare anche azionisti e obbligazionisti subordinati. La polizia ha fermato una ricercatrice dell'Università di Palermo accusata di propaganda jihadista su internet. È stata liberata dal GIP perché, dice il GIP, non sussiste pericolo di fuga, potrà accedere alla rete, a internet appunto. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura abbiamo parlato ampiamente del tema delle banche, delle quattro banche salvate dal governo: Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, con un decreto varato il 23 novembre scorso. Nel frattempo proseguono altre vicende bancarie non collegate ovviamente a questo decreto e non in quelle situazioni di dissesto, ma ci sono banche che devono affrontare il passaggio appunto da banca popolare a società per azioni. C'è una vicenda che vi vogliamo raccontare con un'intervista realizzata dalla nostra Livia Zancanera, e riguarda Ivan Favretto. È un meccanico di 35 anni di Castelfranco Veneto. Lunedì mattina si è presentato nella filiale di Veneto Banca di Borgo Treviso per riavere indietro i soldi investiti e ha portato via dalla cassa 7.300 euro. La pena è di un anno, 8 mesi, 10 giorni di reclusione. Al microfono di Livia Zancanera dice: ho perso la testa. Da parecchi anni sono cliente suo, Veneto Banca. Circa un anno fa mi hanno fatto investire i soldi, diciamo mi hanno obbligato a investirli là, perché mi chiamavano ogni settimana: vieni in banca, mettili qua, mettili là. Adesso non sono un esperto in finanza, mi facevano tutti i discorsi e comunque mi hanno assicurato che sono sicuri, che se mi servono prima della scadenza me li danno, non c'è nessun problema, e mi sono fidato. E dove li ha investiti? Sulle azioni in Veneto erano tre tipi di azioni, comunque in totale alla fine sono venuti fuori che ho investito più di 10.000 euro. 5.000 di quelli erano delle altre obbligazioni che alla scadenza sono passate azioni automaticamente, mi sono trovati lì. Da poco, in luglio di quest'anno, quando mi sono accorto che di 10.000 erano diventati 8, sono andato là, ho detto basta, datemeli. Hanno detto no, non si può. Sabato scorso sono andato all'assemblea, che era una pagliacciata. Lunedì mattina ho detto adesso vado a parlare in banca, sono andato fuori di testa. Mi hanno arrestato, ho fatto un giorno in carcere, il giorno dopo, ieri, hanno fatto il processo per direttissima. Sono stato fortunato che ho preso la condizionale e adesso sono fuori. Non ha pensato di rivolgersi a un'associazione di consumatori prima? No, non sono andato. Sì, era meglio se andavo da loro prima. Ormai è andato così. E così dunque l'intervista realizzata da Livia Zancaner. Torniamo alla cronaca. La polizia, su ordine della procura di Palermo, ha fermato una cittadina libica di 45 anni, una ricercatrice universitaria nell'Ateneo siciliano, per istigazione a commettere reati di terrorismo. Era in contatto con diversi foreign fighters, che sono gli occidentali che vanno a combattere in Siria e in Iraq, e faceva propaganda per Al-Qaeda sul web. Che cosa è successo? È successo che il GIP di Palermo, Fernando Sestito, non ha convalidato dato il fermo e ha disposto l'obbligo di dimora, dice il GIP, che non sussisterebbe il pericolo di fuga. La donna adesso ha comunque accesso a internet, alla rete e ai mezzi di comunicazione. La misura, dice il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, è del tutto inadeguata alle esigenze cautelari e all'intensissima rete di rapporti intrattenuti dall'indagata. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Intanto ci occupiamo del nuovo naufragio al largo della Grecia. 10 persone, tra le quali 5 bambini, 2 bimbe, 2 bambini e un neonato, sono annegate e altre 2 risultano disperse in un naufragio al largo delle coste dell'isola greca di Farmakonisi nel mare Egeo. Secondo le autorità elleniche, la barca nella quale viaggiavano, probabilmente proveniente dalla Turchia, trasportava 25 persone, 13 delle quali sono state quindi salvate, ma 2 di loro sono in coma e sono state trasportate all'ospedale dell'isola di Leros. Tutto questo nel giorno in cui il papà di Aylan Kurdi, il bimbo siriano annegato a settembre al largo della Turchia e diventato simbolo della tragedia dei migranti, ha lanciato un appello video. Il mondo intero apra le porte ai siriani, non dimenticate mio figlio, dichiara Abdullah Kurdi nel video diffuso dal canale britannico Channel 4. Ieri l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha certificato in 3.700 le persone morte nel Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa nel 2015. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso i dati economici arrivati questa mattina, quelli su fatturato dell'industria a ottobre, un rimbalzo di 2 punti percentuali rispetto ai mesi precedenti, anche per il commercio il trend di crescita non si ferma, sentiamo. Balzo in avanti sia sul mercato estero sia su quello interno del fatturato dell'industria italiana a ottobre. Al netto della stagionalità, secondo l'Istat, il dato registra un incremento del 2% rispetto a settembre, dopo 3 mesi in calo, e sono in espansione anche gli ordinativi, che arrivano al 4,6% e addirittura al 6% quelli sui mercati esteri. Li legge così Roberto Monduccio, capo Dipartimento Statistiche Economiche Istat. Se lo contestualizziamo nell'ambito di un trimestre, però vediamo che il livello del fatturato è diminuito. Noi lo chiamiamo un rimbalzo. E nel commercio salgono di poco, dello 0,3% le vendite al dettaglio a ottobre, ma resta positivo il trend su base annuale, che sale dell'1,8%. In generale la situazione è fortemente crescente su base annua, ma abbiamo delle oscillazioni di breve periodo. Boom, in particolare dell'industria dell'auto, con nuovi aumenti a 2 cifre a ottobre. Non solo sale la fabbricazione di autoveicoli a ottobre del 31,8%, ma anche gli ordinativi del 25,9% nell'anno, un traino a 4 ruote. Traino importantissimo al fatturato. Le oscillazioni comunque non devono preoccuparci, la ripresa tiene. L'economia si è messa su un sentiero di crescita, sembra solido sia per le imprese industriali che per quelle commerciali. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è il traffico, poi il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.